Adesso che le ombre già avvolgono, montagne e prati salutano il giorno, casa tua è dove ride l'anima, spero rida ancora insieme a me. Seduti qua davanti alla TV spenta, nei bicchieri del corallo già versato, a fiumi pensieri corrono liberi come le dita di mani giovani. Brindiamo ai nostri momenti intensi, le prese e gli abbandoni, i voli come le rondini, audaci, vivi, né paura di cadere o perdersi. Viva la vita, lontana la morte, cooperazione fra le persone e possibilità di immaginare un futuro migliore. Prendiamo alle tante braccia unite, sudore scorre lungo le nostre schiene. Arriva al mare, ma non si fermerà. Già un bambino sogna cosa cambierà. Brindiamo lungo linee di confine, nelle mani pazienza e comprensione, negli occhi un orizzonte comune, il bambino sogna e non si fermerà. Viva la vita, lontana la morte, cooperazione fra le persone e possibilità di immaginare un futuro migliore. Viva la vita, lontana la morte, cooperazione fra le persone e possibilità di immaginare un futuro migliore.